Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. This old world may never change. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 442. Una puntata che potremmo definire mare e monti, dato che parleremo di fauna marina e alpina, ma ci concederemo anche una parentesi culturale grazie a una rivista scatenata. Speriamo di avervi incuriositi. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Dedichiamo questa puntata agli animali selvatici che abitano nell'area del parco di Yosemite, in California, colpito nei giorni scorsi da un grosso incendio. Ogni estate, a causa degli incendi, muore un numero impressionante di animali che restano intrappolati nelle fiamme o che perdono nell'incendio le loro risorse vitali. Pensate anche a loro, prima di accendere dei falò o di gettare delle sigarette. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Siamo in piena estate, il momento opportuno per parlare dei pesci, animali ai quali si pensa sempre troppo poco. La puntata di oggi sarà quindi costellata tra un servizio e l'altro da una serie di notizie, informazioni e riflessioni sui pesci e sulla pesca. Visitando il mercato del pesce più grande del mondo, lo Tsukiji a Tokyo, ci si rende conto di come l'uomo sfrutta ormai le acque al di sopra delle loro possibilità. In questo mercato, infatti, sono presenti più di 10.000 specie commestibili di pesci e molluschi, che giungono ormai da tutte le aree più pescose del mondo. Il pesce più quotato, pensate, è il tonno del Mediterraneo, in particolare quello sardo, che arriva in Giappone già surgelato. Nel sito internet del Ministero Italiano delle Politiche Agricole c'è scritta la seguente frase: la pesca, quando è responsabilmente condotta, rappresenta un esempio di interazione e di continua ricerca di equilibrio tra le risorse naturali e il loro utilizzo da parte dell'uomo. Purtroppo però questo equilibrio è stato irrimediabilmente rotto. Il 9 luglio scorso infatti è scattato il Fish Dependence Day, ovvero la fine simbolica per l'Europa delle proprie scorte di pesce. A lanciare l'allarme è il WWF, precisando che per tutto il resto dell'anno l'Europa, per soddisfare la richiesta dei consumatori di pesce, dovrà dipendere dalle importazioni. Sulle tavole, infatti, c'è più pesce di quanto se ne possa pescare o allevare in autosufficienza, con oltre la metà della domanda europea che viene soddisfatta dal resto degli oceani, soprattutto da quelli dei paesi in via di sviluppo, che forniscono la metà del prodotto consumato. Il Fish Dependence Day europeo è arrivato quest'anno un mese prima rispetto al 2000. E oggi a minacciare i mari ci sono anche le plastiche, ricorda il WWF, che entrando nella catena alimentare riducono ulteriormente la disponibilità di risorse. L'autosufficienza italiana, per quanto riguarda il consumo di pesce, è inferiore rispetto a quella europea. Secondo l'associazione ambientalista WWF, le scorte di pesce italiano, pescato o allevato, infatti, sono già esaurite dal 6 aprile scorso. In poco più di 3 mesi, dichiara la presidente di WWF Italia, Donatella Bianchi, l'Italia ha consumato l'equivalente dell'intera produzione ittica annuale nazionale e la restante parte dell'anno dipenderà dalle importazioni. È importante notare come si parli regolarmente al singolare, cioè di pesce, intendendo però non un singolo animale, ma qualcosa di indistinto e di plurale. Nessuno parla dei pesci. I pesci infatti sono animali che vengono conteggiati a peso e non numericamente a individuo. C'è un problema quindi con la soggettività dei pesci, che pur essendo viventi con un cuore, un sistema nervoso centrale, un cervello, non sembrano degni di essere soggetti. Sono solo massa, solo chili. Intanto c'è una difficoltà a conteggiare i pesci pescati ogni anno. Secondo fishcount.org.uk, il numero di pesci selvatici macellati ogni anno dalla pesca commerciale varia dall'1 ai 2,7 miliardi di individui. In un rapporto, la stima relativa al 2012 dei pesci uccisi nell'ambito degli allevamenti di piscicoltura è stata invece conteggiata in un ordine che può andare tra i 37 e i 120 miliardi all'anno. Il premio Nobel Paul Crutzen nel 2002 ha osservato che le operazioni di pesca prelevano più del 25% della vita negli oceani polari e il 35% negli oceani delle fasce a clima temperato. Sono numeri da capogiro. All'argomento del pesce e della pesca, che come abbiamo accennato è un filo rosso che scompare e riappare lungo tutta questa trasmissione. Il quadro del benessere animale nel contesto della pesca industrializzata è terrificante. La modalità più diffusa di macellazione utilizzata nel settore della pesca è la morte per asfissia. I pesci vengono lasciati morire lentamente a causa di carenza di ossigeno. E ci vuole parecchio perché un pesce muoia. Il lasso di tempo durante il quale i pesci soffrono prima di perdere coscienza è considerevole. La trota impiega un quarto d'ora, l'orata 25 minuti, il branzino 60 minuti. La pratica diffusa di mettere i pesci vivi in un impasto di ghiaccio prolunga ulteriormente l'agonia. Molti pesci subiscono anche l'eviscerazione da vivi come parte del processo di macellazione. C'è anche la pratica di tagliare le branchie del pesce che viene poi rimesso ancora vivo in acqua. Questo metodo utilizza il cuore pulsante del pesce ancora in vita per drenare fuori il sangue dal corpo, allo scopo di migliorare la carne in termini di gusto e di aspetto. Nel caso delle anguille, poi, è prassi comune metterle in un bagno di acqua salata per purificarle dal fango, un processo per il quale le anguille provano repulsione, e questo avviene prima di venire eviscerate da vive. L'intero calvario per le anguille dura circa 20 minuti. Nel 2012 James D. Rose e colleghi, nell'articolo Can Fish Really Feel Pain, hanno contestato l'idea secondo cui i pesci provino dolore e hanno affermato: anche se fossero coscienti, sarebbe ingiustificato supporre che i pesci posseggano una capacità di provare dolore. È improbabile che i pesci provino dolore. Nel caso dei pesci, infatti, a livello accademico non esiste un consenso universale rispetto alla realtà della loro sofferenza. E ciò rende ancora più arduo il compito di difenderli. Per gli animali marini la situazione è fosca. La crescente domanda a livello globale, l'espansione esponenziale dell'acquacoltura industriale e un dubbio consenso circa la sofferenza dei pesci suggeriscono che il benessere dei pesci continuerà a non essere una questione prioritaria nell'ottica di una massiccia ristrutturazione del consumo di proteine a favore di quelle derivate dai pesci. Le informazioni che vi abbiamo appena dato le abbiamo trovate in un articolo di Dinesh Joseph Vadivel intitolato «I pesci resistono?», tradotto in italiano e pubblicato nel numero 26 della rivista trimestrale Liberazioni, numero uscito nel settembre del 2016. Adesso è in uscita il numero 33 dell'estate 2018 e Luigia Marturano, che fa parte della redazione, ci anticipa un assaggio dei contenuti in corso di pubblicazione. Se la storia è il teatro delle relazioni, perché guardare ad essa sempre e solo con occhi umani? Se lo chiedono due artiste finlandesi nel testo di presentazione al loro progetto Il Museo della Storia del Bestiame e la traduzione di Chiara Stefanoni. All'inizio dell'Olocene, più di 10.000 anni fa, il grande Uro cominciò a vivere fianco a fianco con la scimmia, dimenticandosi progressivamente i costumi tradizionali e apprendendo un nuovo modo di vita. È un bovino che racconta e ci strattona, obbligandoci a cambiare prospettiva. Fra le pagine del nuovo numero di Liberazioni fa poi capolino un magnifico volto rivoluzionario, quello di Mario Mieli. L'anno scorso, dopo 40 anni dalla prima uscita, è stato pubblicato il suo Elementi di critica omosessuale. Come evidenzia Leonardo De Flavis nella sua recensione, Mieli identifica nella norma eterosessuale il meccanismo oppressivo attraverso cui si genera e si preserva la società patriarcale con tutta la sua violenza sulle donne e il dominio di un gruppo sociale sull'altro. Ed ecco che anche Mieli propone di sprofondare nel terreno dell'eros indifferenziato, dei desideri polimorfi, delle potenzialità che i corpi hanno fin dalla nascita, per attuare una Gaia rivoluzione e realizzare una nuova organizzazione sociale finalmente non gerarchica. Il romanzo Regno animale di Jean-Baptiste Delalmont, ci dice Ornella Riunirovic nella sua recensione, fa a pezzi la contrapposizione tra gli attuali allevamenti intensivi e il mondo contadino, in cui gli animali in passato, ma anche nel presente, avrebbero avuto una vita più dignitosa e di maggior benessere, e che invece è stato un mondo di efferatezze inenarrabili nei loro confronti, e dove anche i corpi umani sono stati carne da macello e sono tuttora sfruttati. Per tutto il dolore prodotto dallo stesso meccanismo stritolante e che trasuda uguale dalle situazioni che cambiano, dalle generazioni che si avvicendano, dalle cose che si consumano, potrà mai esserci una prospettiva di libertà? Le pagine finali del romanzo sembrano proprio suggerirla. Torniamo al filo rosso, alle informazioni e alle riflessioni sul pesce e sulla pesca. Prima di dire sano come un pesce, bisogna pensarci bene. L'industria della piscicoltura, gli allevamenti intensivi di pesce, infatti, ogni anno gettano via qualcosa come 10 milioni di salmoni a causa di malattie, bidocchi e altri problemi. Gli ispettori sanitari scozzesi incaricati di indagare sui decessi di massa negli allevamenti di salmoni lungo la costa occidentale e sulle isole si sono trovati di fronte a pesci gravemente malati, morti o morenti ancora prima della cattura e che riportavano inoltre lesioni sanguinolente, danni agli occhi, malformazioni agli organi e perfino piaghe procurate dai bidocchi marini che si nutrono di carne. La realtà degli allevamenti di pesce è emersa da 300 foto scattate in 27 allevamenti ittici scozzesi dal 2015 a oggi e rese pubbliche dal governo scozzese in base alla legge sulla libertà di informazione e pubblicate in esclusiva da The Ferret. And dolphins tali foto rivelano realtà davvero mostruose. Un abuso scioccante e stomachevole è stato il commento degli attivisti per i diritti animali che hanno chiesto ai consumatori di boicottare il pesce proveniente da queste realtà. Ma anche Don Staniford, direttore dello Scottish Salmon Watch, che si occupa di studiare le condizioni in cui vivono i salmoni negli allevamenti scozzesi, ha parlato di vergogna per gli allevatori scozzesi di salmone e per i supermercati che hanno sostenuto una forma di allevamento così eticamente fallimentare. Ma il problema non è limitato al Nord Europa. Sono molti gli studi e le analisi che provano la tossicità del pesce, specialmente quando si tratta di pesce proveniente dagli allevamenti. Negli esemplari allevati sono state infatti trovate sostanze chimiche potenzialmente cancerogene per l'uomo, il cui uso è comunque autorizzato sia nell'agricoltura che negli allevamenti ittici. Lo stesso discorso vale per sostanze considerate genotossiche, cioè in grado di modificare il DNA di chi le ingerisce. Analisi sanitarie su campioni derivanti da ciascuno dei grandi oceani rivelano che l'intero pianeta è inquinato. Le raffinerie di petrolio, l'industria metallurgica, le fabbriche di fertilizzanti, l'industria chimica e della carta portano al mare mercurio, piombo, oli e grassi. E i pesci di grande taglia, come il pesce spada e il tonno, sono i più inquinati. Per chi volesse evitare il consumo di pesce, esistono fonti vegetali di omega 3 come la portulaca, l'olio e i semi di lino, la soia, le noci, gli spinaci e i broccoli. Monti abbiamo detto nel sommario di questa puntata e dopo aver parlato molto di pesci e di pesca passiamo a un tipico esponente della fauna alpina, il cervo. Il servizio è a cura della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Siamo a Pian delle Betulle, al Pedipaglio, in compagnia di Mario, che è un volontario che si occupa di una famiglia di cervi che viene ospitata appunto qui. Che storia hanno questi cervi e come mai tu te ne occupi regolarmente? Era stata iniziata un'attività a scopo didattico per poter permettere alle persone, anche portatrici di handicap, di poter arrivare a vedere gli animali. Un'area è questa, in località Pian delle Betulle, in provincia di Lecco, su un'area di 8.000 metri quadri. Quindi è stato fatto un'area per mettere degli animali selvatici come cervi, un'altra area leggermente più piccola dove avevano messo 2-3 caprioli e poi c'era un'altra area in cui era stata costruita, oltre al resto, una voliera molto, molto grande. Poi vabbè, il comune ha deciso che non aveva più soldi e allora l'ha data a una cooperativa. E una settimana dopo è fallita e hanno chiuso. E questi sono rimasti così. Allora il sindaco si è sentito un po' in obbligo di continuare a mantenerli e ha continuato per quasi un anno. E poi dopo ha detto basta, noi non vogliamo più. E allora sono arrivati alla vendita di questi animali a un macellaio. Lui avrebbe fatto una tipo allevamento, li avrebbe fatti procreare in modo che poi avrebbe potuto usufruire della carne. Poi Freccia 45 è intervenuto, nell'arco di un anno sono riusciti a risolvere il problema e gli animali sono finiti di Freccia 45. Adesso erano diventati 5 perché avevano partorito. Quest'inverno ha fatto molto freddo e purtroppo sono morti. E praticamente l'autopsia ha dichiarato che aveva una broncopolmonite. Originariamente però da dove arrivavano? Sono stati catturati in natura? Amilcare era quel famoso cervo che avevano detto che aveva ucciso una persona in Toscana. Poi la versione dei fatti non si è mai capito bene com'era. È uscita anche una versione che lui, il ragazzo è andato lì a provocarlo, certo. E questo qui l'ha incornato, perché si è difeso comunque. Mentre invece le due femmine, perché era un maschio con due femmine, arrivavano dal Trentino, su per di là. da Lecco salgo due volte alla settimana a portare cibo. A portare cibo, porto delle crocchette, le carote, mele e un pochino di pane. E loro con te come si rapportano? Bene, visto prima, arrivano fino a circa un metro di distanza, addirittura la piccolina che è morta, noi abbiamo una fotografia che gli davamo da mangiare con le mani. Si chiamava Matilde. Rilasciarli invece liberamente in natura ce la farebbero? Qualcuno un giorno ha provveduto a lasciare i cancelli spalancati. Loro sono usciti e sono rientrati. Matilde era scappata. Uno era entrato per portargli da mangiare, aveva lasciato il cancello aperto. Matilde era la più curiosa di tutte, piccolina, è uscita fuori. Ci abbiamo impiegato 15 giorni a riprenderla, perché lei era sempre qui che girava intorno. Al cancello, però il cancello era chiuso, quindi non riusciva a entrare. Sì, i due piccolini che sono morti e il principe sono nati qua. Sono nati qua. Quindi sono troppo abituati alla cattività, troppo abituati a non far fatica ad andare a trovare da mangiare. Hanno l'orario, perché sanno che io arrivo, si fermano là e aspettano. Li considerano pericolosi, sicuramente bisogna stare attenti, non bisogna avvicinarsi troppo, anche perché avvicinarsi troppo vuol dire che dopo si rischia che il branco non l'accetti più, specialmente i cuccioli, sono comunque animali selvatici, non dobbiamo mai dimenticarli. Quindi bisogna rispettare la loro privacy. È casa loro poi. È casa loro questa. Estate, mare, cetacei, delfini. Puntata dedicata musicalmente ai delfini. Ho selezionato diversi brani dedicati a questi animali, come quello di Tim Buckley nella sua versione e in quello di Beth Orton dei delfini a carico dei Simple Minds. Ma dedichiamo uno spazio un pochino più ampio al sorriso del delfino da parte dei Byrds. Un testo bizzarro e simpatico di qualcuno che sta in mare per un anno e paragona questo suo scorazzare per il mare alla vita di un delfino. L'arcobaleno fiorisce ovunque, pieno di luce, e sono libero come l'aria, come un sogno dell'infanzia, e la canzone finisce con una ipotetica domanda. Hai mai visto il sorriso di un delfino? Fatecelo sapere sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Buon ascolto e buon'estate. Out at sea for a year, floating free from all fear. Every day, blowing spray, dolphins sigh. Wind or tide, split the sky. La rubrica di cucina, il pasto gentile di questa settimana sarà a tema. Stavolta abbiamo sfidato il tosco vegan chef Gabriele Palloni a trovare una ricetta da dedicare ai cervi. Vediamo se lo chef ha saputo cavarsela anche questa volta. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Cogliendo l'assist appena fornito, resto in tema cervo, ma non mi riferisco al bellissimo animale che lasceremo correre libero nei boschi. La ricetta di oggi ci porta a Cervo, il bel comune ligure in provincia di Imperia, e pesca a piene mani dalla tradizione della cucina povera di questa terra. Gli ingredienti per 4 persone per le zucchine ripiene alla ligure sono 4 zucchine, una cipolla, 4 fette di pane integrale, un cucchiaio di alghe wakame, della maggiorana fresca, un cucchiaio di capperi sotto sale, sale e pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e del pangrattato. Mettete le alghe in ammollo in un bicchiere di acqua fino a quando non si saranno reidratate. Scolate le alghe conservando l'acqua nel quale bagnerete il pane integrale. Lavate e tagliate le zucchine per la loro lunghezza. Con uno svuota zucchine o con un cucchiaio togliete la polpa interna, lasciando un piccolo bordo tutto intorno. A parte sbucciate e tritate la cipolla. Mettetela in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e fate rosolare per 5 minuti. Unite la polpa delle zucchine e le alghe. Fate cuocere alcuni minuti schiacciando con una forchetta. Tritate il pane integrale, ben strizzato dall'acqua, assieme ai capperi e poi unite tutto alla polpa di zucchine. Addensate con il pangrattato e aggiustate di sale e pepe. Infine aggiungete la maggiorana fresca tritata finemente. Riempite le zucchine con questo impasto e sistematele in una teglia da forno spennellata con il rimanente olio. Spolverate la parte superiore con alto pangrattato e decorate con qualche cappero. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti. Fate intiepidire prima di servire con un filo d'olio extravergine a crudo ed una foglia di maggiorana fresca. Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 443 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.